30, 36, 43. Le insegnerò, sì, le incendierò. Saprò, saprò, saprò, saprò, saprò, mi appiavo. Piano, piano, piano, piano, piano, piano. Miglior mi arcano dissimulando scoprì e potrò. L'arte schiamendo, l'arte d'aprendo, ti qua bugnendo, ti la schiacciando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schiamendo, l'arte d'aprendo, ti qua bugnendo, ti la schiacciando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. La vendetta, oh la vendetta, e un piacer serva coi sacci, e un piacer serva coi sacci. L'obliar l'anterior tracci, l'obliar gli oltraggi di bassezza e ogni orviltà, e bassezza e ogni orviltà, e ogni orviltà. Con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio si potrebbe il fatto è serio, il fatto è serio, il fatto è serio. Ma credite si farà, ma se tutto il codice dovesse folgere, se tutto l'indice dovesse leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche cartuglio si troverà. Se tutto il codice dovesse folgere, se tutto l'indice dovesse leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche cartuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà, si troverà. Tutta sedia conosce Bartolo, il virgo Figaro, finto sarà tutta Sevilla. Conosce Bartolo, il virgo Figaro, finto sarà il virgo Figaro, finto sarà il virgo Figaro. Thank you. Thank you. Signora, oh, capisco come va. Giusti, vedi,